Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. Naturalmente potete ascoltarci anche tramite il web con l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it. E do il benvenuto da parte mia anche agli ascoltatori dalla Lombardia, che raggiungiamo tramite il DAB, potete ascoltarci naturalmente anche nelle province emiliane e quindi questo è un gran bel passo avanti per Radio Città Fujiko. Così anche gli amici lombardi avranno l'opportunità di ascoltare questa trasmissione che ogni mercoledì per 2 ore si preoccupa di farvi ascoltare i brani che sono stati registrati live nel corso degli anni e di quasi tutti i generi. La trasmissione è denominata Città Fujiko Live Club. E anche in questa ultima trasmissione dell'anno, per quel che mi riguarda, Città Fujiko Live Club inizia con una novità che ne elide altre, nel senso che il 7 gennaio, la prima trasmissione del 2026, sarà appannaggio delle migliori uscite discografiche di quest'anno, ma non saranno comprese quelle evidentemente uscite negli ultimi giorni del 2025. Quindi diciamo che la novità di oggi è l'ultima novità per quel che riguarda quest'anno, da parte di una band che ha fatto la storia del rock, non sto scherzando, e però nessuno se ne ricorda più in pratica, i media ne parlano pochissimo, non si sentono quasi mai per radio, anzi mai per le radio, meno quella che ascolto io, e però sono stati veramente molto importanti. Una band che si chiamava Kinks, con la K, non Re, ma Kinks, sono stati formati a Londra nel 1962 dai fratelli Davis, vale a dire Ray, che è il cantante solista e chitarrista, e Dave, che era il chitarrista solista. Sono sciolti nel 1997, dove soprattutto nella prima parte hanno sciorinato una serie di brani che sono stati veramente epocali, con un termine che non mi piace molto, ma che sicuramente è il caso. You Really Got Me, tanto per farne uno, One Day, All of the Day and All of the Night, un altro. È stata sicuramente una delle band più influenti degli anni 60. Poi hanno fatto alcuni album molto particolari, un po' un po' cabarettistici, diciamo così, nel quale prendevano in giro il modo di vita britannico, album che sono stati pieni di sarcasmo, di umore tipico britannico, e per coloro come me che non capiscono molto bene la lingua inglese, erano un po' ostici, diciamo così. Nel corso della loro carriera, ripeto, dal 1962 al 1997, hanno fatto 5 album dal vivo, dei quali uno, che si chiama One for the Road, è assolutamente imperdibile. Qui invece abbiamo un nuovo album che è uscito qualche settimana fa, che si chiama The Journey Part 3. Le prime due sono uscite qualche tempo fa. Questa è un doppio CD che comprende nel primo un'antologia dei loro brani più conosciuti, e nel secondo invece un intero concerto registrato alla Royal Albert Hall di Londra, concerto che è stato registrato nel 1993, non sono riuscito a trovare esattamente dove, adesso dopo farò un'altra ricerca. Comunque andiamo ad ascoltarceli questi Kings, il brano si chiama I'm Not Like Everybody Else, che sarebbe Io Non Sono Come Nessun Altro, ed è uno dei brani più interessanti appunto da questi Kings. Individual. Now, this is a song, the B-side, and it's a song, when I joined a rock and roll band, everybody said, you are crazy to join the Kinks. But I said, I'm not like everybody else. I believe in this. And I got a feeling there should be more individuals in this world. All right, are you individuals? Are you individuals up there? Called I'm Not Like Everybody Else. I won't take all that they hand me down and make out a smile though I wear a frown. And I'm not gonna take it all lying down, 'cause once I get started I go to town. 'Cause I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. And I don't wanna live this life like everybody else. And I don't wanna get a job like everybody else. And I don't wanna be destroyed like everybody else. 'Cause I'm not like everybody else. What am I like? said, we want you to make records like the Beatles and the Rolling Stones. But I said, no, we are the Kinks, we are not like everybody else. And I said to my girlfriend, she said, Ray, don't go on tour. But I said to her, I won't, darling, you know that I love you true. And I'll do anything that you want me to. I'll even confess all my sins like you want me to. But there's one thing that I can't do for you. Why is that? How did I say it? What did I say? La mia ricerca è stata velocissima, anche perché non avevo visto, mio problema, che nell'ultima pagina, scritto in piccolissimo a dire il vero, c'è la data di registrazione di questo concerto, che comprendeva appunto questa I'm Not Like Everybody Else che ci siamo ascoltati, e la data è esattamente l'11 luglio del 1993, per la cronaca era una domenica, e tutti alla Royal Albert Hall a vedere i Kinks. L'album, lo ripeto, si chiama The Journey Part 3, le altre due parti invece sono tutte in studio, per cui non interessano questa trasmissione che, lo ripeto, si chiama Città Fujiko Live Club. Ma parlavamo di questa registrazione alla Royal Albert Hall, grande, grande, grande teatro, bellissimo teatro con un'acustica perfetta, che si trova al Sound Kensington a Londra naturalmente, ed è stata inaugurata nella nuova sede, diciamo così, dopo qualche rinnovo, il 28 marzo del 1971, e poi dopo è stata rinnovata di nuovo fino a raggiungere la capacità attuale di 5.272 persone comodamente sedute. Ci sono anche, naturalmente, come in tutti i teatri, come si deve, gli stalls, e quindi dappertutto si vede veramente benissimo, anche se, a dire il vero, il palco non è molto alto, comunque la visuale è ottima. Avrete già capito, chi segue le mie trasmissioni, che questa prima parte sarà dedicata a questo grande, grande, grande teatro bellissimo che si chiama Royal Albert Hall. E per dovere di ospitalità iniziamo dagli americani, dai gruppi americani che hanno suonato e registrato soprattutto dal vivo chiaramente in questo locale. E tanto per non avere un metodo, andremo stavolta in senso cronologico. Iniziamo dal primo e vediamo dove arriviamo. Innanzitutto iniziamo dal 1960. Abbiamo in concerto una band americana che si chiamava Delaney and Bonnie and Friends, che in questa occasione, come in altre occasioni in tour americani venivano raggiunti e accrescevano il proprio lineup con Mr. Eric Clapton alla chitarra. Lani Bramblett veniva dal Mississippi, Bonnie Lynn O'Farrell, che poi sposò Delaney Bramblett, veniva dall'Illinois, erano marito e moglie. Un giorno faremo anche una trasmissione sui mariti e moglie nelle band. Comunque il loro primo album è del 1969 e On Tour with Eric Clapton uscì come Long Plane nel 1970, nel marzo del 1970, registrato in Gran Bretagna. È stato poi ripubblicato in uno splendido cofanetto, un cubo veramente molto bello, con tutti i quattro concerti inglesi che sono stati fatti in quell'occasione. Quattro solamente concerti, ma ci sono veramente tutti. E tutto questo è stato ripubblicato nel 2010. Ogni concerto, diciamo così, ogni copertina dei concerti ha un colore. Questo è quello verde, è stato registrato, questo era lunedì, il primo dicembre del 1969. Ci andiamo ad ascoltare un medley, due brani classici che sono stati riproposti a suo tempo anche da Black Crowes, pure l'Agia Tribute to Johnson, Delaney and Bonnie and Friends with Eric Clapton, era il 1969. Over raising 14 kids when his daddy got caught stealing chickens from a neighbor one day. We're gonna lie. Poor Liza, born the son of a slave. Poor Liza was damn near blind when he died last week from working in the sun for the man like a dog all day. We're gonna lie. One more time. Nobody, all that knows him. Son, don't let the man get you. Do what it's gonna mean. Ho dimenticato di dire che le registrazioni effettuate alla Royal Albert Hall sono talmente tante che ho dovuto tagliare, no, non ho tagliato, ma ho scelto di farvi ascoltare per questa volta solo bands e artisti dalla A alla D in ordine alfabetico. Poi naturalmente ci sarà occasione per altre in altre trasmissioni per andare avanti con l'alfabeto. Comunque questi erano i Creedence Clearwater Revival, che a pieno merito arrivano dalla A alla D, e una voce e un suono che per chi ha la mia età è assolutamente inconfondibile. Loro hanno pubblicato, sono stati attivi dal 1967 al 1972, californiani naturalmente, e hanno pubblicato, loro o chi per loro, 4 album live, tutti postumi. Questo è l'ultimo in ordine di tempo, è stato pubblicato nel settembre del 2022, si chiama semplicemente At the Royal Albert Hall, è stato registrato il 14 aprile del 1970 e il pezzo si chiama Born on the Bayou. Altro suono particolarmente riconoscibile, questo di questa band, che dopo aver accompagnato Ronnie Hawkins prima e Bob Dylan poi, nel momento in cui decisero di diventare un ente proprio dovettero scegliere un nome, scelsero un nome altisonante, The Band, semplicemente la banda, il gruppo, coloro, cioè il prototipo della band. È un'altra band fondamentale, scusate la ripetizione perpetua di band, è un altro gruppo fondamentale nel campo della musica americana. E Stage Fright è stato il loro terzo album di studio, è stato pubblicato nell'agosto del 1970, ma poi come long play, ma poi è stato ripubblicato in versione 2 CD nel 2021. Come succede spesso, anche nel caso della novità che vi propongo oggi, il secondo album, il secondo CD, è stato registrato alla Royal Albert Hall il 2 e il 3 giugno del 1971. Il brano che ci siamo ascoltati è uno dei classici, uno dei super classici della band, si chiama The Wait. A dry summer and then come fall. A questo punto passiamo la palla agli indigeni, ci sarebbero ancora tantissime cose registrate da band e artisti americani alla Royal Albert Hall, ma andiamo nel lato britannico della situazione e cominciamo con un gruppo che viene da Guildford nel Surrey, è stato attivo dal 1971 al 1984, poi è stato riformato dal chitarrista Andy Latimer nel 1991 ed è tuttora attivo. Andy Latimer naturalmente è l'unico membro originale rimasto. Hanno fatto un sacco di album live e anche un paio di cofanetti molto interessanti. Questo è uno, si chiama Rainbow's End, sono 4 CD che comprendono un'antologia di brani assortiti più parecchie canzoni dal vivo mai pubblicate. Questa è una di quelle, è dedicata a una città francese che si chiama Dunkirk e che è stata registrata il 17 ottobre del 1971 insieme alla London Symphony Orchestra. Il brano, lo ripeto, si chiama Dunkirk. Thank you. never set me free. The ties that bound us are still around us. There's no escape that I can see. And still those little things remain that bring me happiness or pain. A cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket to romantic places. And still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. You came, you saw, you conquered me. When you did that to me, I somehow knew that this had to be. Gardenia perfume lingering on a pillow, while strawberries only 7 francs a kilo. And still my heart has wings. These foolish things remind me of you. Grande personaggio Brian Ferry, assolutamente inarrivabile come charm, come look, come tutto. Cantante dei Roxy Music dal 1970 al 1983, poi ci sono state alcune riunioni, fra cui quella del 2001. Lui però a un certo punto affiancò la carriera solista a quella con i Roxy Music, infatti il suo primo album è del 1973, si chiama These Foolish Things, ed è un album pieno di covers. Ci sono solamente due brani scritti da lui. Quello che ci siamo ascoltati è il title track del suo primo album, appunto These Foolish Things, che è una cover di un brano del 1935. L'album dal quale è tratto si chiama Live at the Royal Albert Hall 1974, è stato registrato appunto il 19 dicembre del 1974 ed è anche questo un album pieno zeppo di covers. E da notare che la backing band che accompagna Brian Ferry sono praticamente Roxy Music in incognito. Please allow me to introduce myself. I'm a man. Ecco, questa è la prima cover del disco Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Ma andiamo a concludere questa forzatamente piccola rassegna di brani registrati alla Royal Albert Hall di Londra. Ricordo ancora una volta, dalla A alla D, quindi ci saranno sicuramente altre puntate. D come Dire Straits, che concludono questa rassegna, appunto mini rassegna per meglio dire, con Dire Straits naturalmente fondata dai due fratelli Knopfler, Mark chitarrista e cantante, David chitarrista e backing vocals, diciamo così. Sono stati attivi dal 1977 al 1995, poi hanno avuto un break interno quando appunto se ne andò David Knopfler, che fra l'altro ci ha lasciato nel 1980. Dire Straits hanno fatto 3 album dal vivo, ma quello che interessa a noi è questo che si chiama Sultans of Swing, The Very Best of Dire Straits, vale a dire una raccolta che oltre ai soliti brani, potenzialmente tutti singoli direi, nel primo dischetto, nel secondo ha un concerto registrato alla Royal Albert Hall il 23 maggio del 1996, che in realtà è un concerto solista di Mark Knopfler. Non esistevano più a quel tempo i Dire Straits, c'era Mark Knopfler solo, e quello che ci andiamo ad ascoltare è un brano che, come tutti quelli più o meno dei Dire Straits, è conosciutissimo. E visto che siamo in un clima molto sentimentale, molto amoroso, molto melenso, oserei dire, questo brano si chiama Romeo and Juliet. Love struck Romeo, he's got a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Finds a convenient streetlight, he steps out of the shade. He says something about you and me, babe. How about it? Juliet says, it's Romeo. You nearly give me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, hey, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about me? We come up on different streets, and they both were streets of shame. Both dirty, yeah, both mean. I said the dream was just the same. The dream was just the same. dreamed your dream for you, so now your dream is real. How can you look at me as if I'm just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises. You said I love you, baby, till I die. And there's a place for us. You know the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong. Junior, Junior. And I can't do the talk. Like they're talking on the TV. I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. And I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you the way we used to be. And all I do is keep the beat. All I do is kiss you through the bars of Orion. Julie, I do the stars with you, babe. Any time, oh Julie. Yeah, when we made love, you used to cry. You said I love you like the stars above. You said I love you, baby, till I die. In this place. Me, babe. Thanks to a great audience. This is the triumph of the will indeed. This is a song that's responsible for making us come here tonight. It's called You Really Got Me. Yeah. Ed eccolo qua, il super classico dei classici, You Really Got Me, un brano che ha aperto la seconda parte di Città Fusico di oggi, ultima trasmissione dell'anno, 17 dicembre 2025. E però anche in questa seconda parte sempre c'è una rubrica che si chiama Ricordi Today, che vi fa ascoltare i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Oggi non ci sono tantissime cose, ma comunque sempre come continuità annuale, diciamo. Infatti andiamo a partire dal 1970 con un grandissimo della musica mondiale. Faccio un passo indietro per dire che il brano che ci hanno ascoltati, You Really Got Me, appartiene alla novità che vi propongo quest'oggi, che è un album parzialmente un'antologia, infatti si chiama The Journey Part 3, mentre il secondo dischetto è registrato alla Royal Albert Hall di Londra in diverse occasioni, ma principalmente nel luglio del 1993. Chiusa parentesi Kings, andiamo appunto con questo grande musicista che si chiamava Miles Davis. Veniva dall'Illinois, ci ha lasciato purtroppo nel settembre 1991. È uno dei grandi della musica jazz, quindi della musica mondiale, perché non facciamo distinzioni fra jazz, rock, blues, eccetera. Ha fatto un sacco di album live, dei quali molti usciti dopo la sua morte, e molti anche di dubbia provenienza, non si sa quali siano ufficiali o meno. Certi quelli della Columbia sono ufficiali, altri forse un po' meno. The Cellar Door Sessions 1970 è uno splendido cofanetto di 6 CD, non ringrazierò mai abbastanza l'amico Marco Tenti di avermelo regalato per un compleanno. È stato pubblicato nel 2005, lui, Miles Davis e la sua band fecero 4 notti a Washington DC dal 16 al 19 dicembre del 1970, fecero 10 sets fra le varie serate, 6 di questi sono inseriti appunto in questo splendido, ripeto, splendido cofanetto. Questo in particolare è il secondo set, che è stato registrato giovedì 17 dicembre 1970. Si apre con un brano lungo, però veramente incredibile, che si chiama What I Say, Miles Davis 1970. Passa direttamente al brano seguente, se non fosse già abbastanza lungo. Miles Davis, fantastico come sempre. Dovete contestualizzare, questa musica arriva da 55 anni fa, non era assolutamente normale all'epoca, non lo è nemmeno tuttora, anche se ci sono stati tanti altri, soprattutto fuoriusciti dalla band di Miles Davis, che poi si sono adeguati a questo tipo di sonorità, non ultimi Weather Report. Ma due cose da dire su questo splendido cofanetto, che ripeto si chiama The Cellar's Door Sessions 1970. Sono 6 CD registrati durante 4 serate a Washington DC. Questo in particolare era quello del 17 dicembre del 1970, era il secondo set. E formazione stellare come sempre, cito solamente per non citarli tutti un nome, quello di Keith Jarrett, giovanissimo, aveva 25 anni quando suonava queste cose, ed è veramente fantastico. Un'altra annotazione: le ultime due sere fu chiamato al volo, senza nessuna preparazione, dice la leggenda, senza nessuna prova, anche John McLaughlin alla chitarra. E John McLaughlin sarà il responsabile, diciamo così, di una novità, di una delle prime trasmissioni del 2026, se non addirittura la prima. Il brano che ci siamo ascoltati da Miles Davis, What I Say, lo ripeto, The Cellar Door Session 1970, fantastico. E come sempre tengo a ribadire che Record Today non è nient'altro che una scusa per ascoltarci brani che altrimenti non avrebbero un nesso fra di loro. Non mi piacciono quei DJ molto più bravi di me, naturalmente, che mettono pezzi a caso, per cui cerco sempre di avere un senso logico nei brani che propongo. E a questo a discapito della linearità della musica. Infatti, cosa c'entrano Miles Davis con i Pogues? Direte voi, no, non c'entra niente. No, c'entrano, perché anche i Pogues hanno un brano registrato dal vivo il 17 dicembre. Stavolta però nel 1987. Pogues è stata una super band finché Shane McGowan ha resistito, poi purtroppo ci ha lasciato nel 2023, ma da anni era ormai inattivo perché aveva avuto dei problemi grossi di salute e anche la rottura del bacino. Hanno fatto 5 album dal vivo, uno fra l'altro con Joe Strummer alla voce e alla chitarra, quando Shane McGowan non era in grado di andare in tour. Questo ancora un cofanetto, questo quintuplo cofanetto si chiama Just Look Them Straight in the Eye and Say Pogue Mahone. Sarebbe a dire guardali dritto negli occhi e di Pogue Mahone, che è un termine gaelico per dire baciami il culo, che era anche il nome originale dei Pogues, poi i discografici li hanno convinti a raccorciare il nome solamente in Pogues. Ci sono parecchie canzoni registrate dal vivo inedite in questa quintupla antologia, questa è una di quelle. Barrowlands Glasgow, lo ridico, 17 dicembre 1987, un super classico della band, si chiama A Pair of Brown Eyes, Pogues. Along the jukebox, Johnny sang about a thing called love. How it's how you can, and what's your name, and how much you bloody know. The blood of dust lit a screaming sky, a light on the ground. While the arms and legs and buttermen were scattered all around. Some worse, some prey, some bread, and blood, and curse. at the train. There was no pair of brown eyes waiting for me. Black hole sun, black hole sun, la voce incredibile di Chris Cornell quando non urlava un po' troppo, ma questo brano è veramente notevolissimo, molto bello. Black Hole Sun si chiama, loro naturalmente sono in Soundgarden, che venivano da Seattle, e proprio a Seattle è stato registrato questo brano, che viene da un album che si chiama Live on I-5. I-5 sarebbe per Interstate 5, che è una delle direttrici nord-sud o sud-nord, mettetela come volete, della costa ovest. Infatti è stato registrato in diverse città sulla, su questa autostrada americana, questa in particolare proprio a Seattle, che è, come ho detto prima, è la loro città di provenienza, alla Mercer Arena, il 17 dicembre del 1996. Il brano, l'ho già detto ma lo ripeto, che non fa mai male, si chiama Black Hole Sun. Nella prima parte ci siamo ascoltati una band capitanata da marito e moglie, erano della Nembonian and Friends with Eric Clapton, e Over the Rhine è un'altra band di questo genere. Infatti loro vengono da Cincinnati, e Linford Weiler, che suona le tastiere e canta, e Karen Berquist, che canta, suona la chitarra e il piano, sono marito e moglie, hanno formato questa band nel 1989. È una musica molto tranquilla solitamente, ma molto intrigante. Hanno fatto diversi album live, 8 se ricordo bene, 4 fanno parte di una serie che si chiama Live from Nowhere, volume 1, 2, 3 e 4, naturalmente pubblicati in diverse epoche. Live from Nowhere fu pubblicato a suo tempo in 3.000 copie, che sono state spazzate via in un battibaleno, come si suol dire. Sono da lungo tempo sold out, però lo potete trovare in download, che ne vale veramente la pena. Il tutto è stato registrato in uno dei concerti natalizi, come li chiamano loro, al Tufts Theater di Cincinnati, appunto la loro città, anche in questo caso come in quello dei Soundgarden prima. Il pezzo che in particolare che ci andiamo ad ascoltare si chiama Etcetera o Whatever, ed è stato registrato il 17 dicembre del 2005, Over the Rhine. Come out of your eyes, your way, where this nightmare, like thorns, you hold these secrets to your breast. Your slender fingers closing into fists, trace your bruise like a guilty streak. Oh, the pain you're gonna show. You think you have no other gift to give, but we have so much left to live. We don't need sleeping on the beach, keeping oceans within reach. Whatever private oceans we can conjure for free. I will stumble there with you and you'll be laughing close to me, trying not to make a scene. Set a row, whatever, I guess all there is. We're gonna be alright. Yeah, we're gonna be alright. You can close your eyes tonight, 'cause we're gonna be alright. kissed ashore. And courage is a weapon we must use to find some life you can't refuse. We don't need a lot of money. We'll be sleeping on a beach, keeping oceans within reach. Whatever private oceans we can conjure up for free. I will stumble there with you while you'll be laughing close with me, trying not to make a scene. Set a rhyme, whatever, I guess all I really mean is we're gonna be alright. Si chiamano Over the Rhine, il brano in particolare Etc. Whatever, e il tutto tratto da Live from Nowhere Volume 1, che troverete solamente per la possibilità, con la possibilità di download sul loro sito Over the Rhine, lo ripeto. Ancora una volta velocemente, perché sono clamorosamente in ritardo, andiamo a concludere questa Record Today di oggi, ma anche questa trasmissione, ultima trasmissione del 2025, con una grande band. Prima abbiamo iniziato con un grande della musica jazz, di 50, una registrazione di 55 anni fa. Il jazz attuale invece è rappresentato dagli Snarky Puppy, una grande jazz ensemble capitanato dal bassista Michael League, intorno al quale ruotano decine e decine di altri musicisti. Hanno fatto molti album dal vivo, l'ultimo si chiama Somni ed è uscito in questi giorni, e sul loro website potete trovare tanti live shows da downloadare, da scaricare a pagamento. Questo è uno di quelli, registrato al Conex di Buenos Aires, Argentina, il 17 dicembre del 2017. E prima di ringraziarvi per l'ascolto, vi ricordo che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì per le frequenze di Città Fujiko, di Radio Città Fujiko. Vi ringrazio per l'ascolto, tantissimi auguri di tutto. Noi ci sentiremo il 7 gennaio con il best del 2025. Di nuovo tantissimi auguri, vi lascio in compagnia di Snarky Puppy, il brano si chiama Thing of Gold. Ciao a tutti da Nevio. Sean Martin en teclados. Y más.